La realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Oggi mi piace tornare su un tema che abbiamo lambito e toccato e sfiorato più volte e che vedo che è abbastanza sul filo delle discussioni. È quella della liceità, della possibilità di stabilire un legame giuridico riconosciuto anche per le coppie che non rappresentano l'ortodossia, quindi le coppie di fatto, le coppie di persone dello stesso genere e sono legate d'amore pur appartenendo allo stesso sesso, è un tema che vedo che è molto discusso. Quello che mi viene da pensare e da riflettere è capire perché ancora si parli di questo problema. Secondo me non c'è problema da questo punto di vista, o perlomeno il problema c'è, scendiamo su un piano delle profonde, radicali convinzioni di carattere etico, di carattere religioso o sui pregiudizi. In realtà sarebbe tutto più semplice se le persone fossero omosessuali, fossero desiderose di stare assieme comunque al di là di ogni regola, di ogni legge divina, possano tranquillamente stare assieme tra loro. C'è un dato di fatto giuridico che riapre il tema, ammesso, e questa mattina cerchiamo di capirlo, che più volte sotto vari governi, in varie legislature si è posto il problema, ma non so per quale ragione, me lo spiegheranno stamattina i miei ospiti, di questo problema poi alla fine non si è mai arrivato a una conclusione, e lo capisco perché sembra quasi impossibile, è un non detto molto faticoso sia dal punto di vista dell'osservatore laico sia da quello che maggiormente si sente ispirato a principi legati alla religione. È un tema che non si vuole trattare, fastidioso, si rimanda, ma è sempre più difficile rimandarlo, sempre più impossibile rimandarlo. Sono sempre più le persone che vivono assieme senza essere sposate, o perché non si possono sposare, o perché non ci sono naturalmente alcune appigli di tipo giuridico che possono in qualche maniera legalizzare la loro unione. Ultimo caso, il caso di Lucio Dalla, che da anni viveva con una persona con la quale aveva comunque un rapporto di convivenza, penso affettivo, non interessa se poi questa qua fosse sfociato in un amore, un grande amore, una passione, non interessa questo, il fatto che è rimasta una cosa sospesa, non si sa bene cos'è il suo erede, avrà la successione questo ragazzo che stava con Lucio Dalla, perché si pone un problema? Perché non c'è una possibilità, c'è un grande imbarazzo di questo. Questa mattina di questo problema ne parlo con un ospite che spesso è venuto nel nostro studio, Gianettore Gassani. Buongiorno, avvocato Gassani, ricordo, presidente nazionale Associazione Avvocati Matrimonialisti, ha scritto un libro di cui abbiamo spesso parlato, I perplessi sposi, indagini sul mondo dei matrimoni che finiscono in tribunale, edizioni Aliberti. E Paola Concia, deputata del Partito Democratico, è stata eletta alla Camera nel 2008, però è anche una mia amica, è molto attiva in questi giorni, sta skypando come una disgraziata, appena fatto un hashtag, com'è? No, eterosessuale. No, eterosessuale, non capisco perché questa discriminazione del nostro lecito diritto di essere eterosessuale. Ecco, Paola, perfetto, Concia, già evito di denigrarti perché ieri alla maratona sei fatta battere da Giorgia Meloni, che è alta la buongiorno metà di te. Buongiorno a tutti. Comunque, intanto, allora, ma io sono una vecchietta, invece di ringraziarmi Nicoletti, che sono andata a fare la maratona ieri, mi ha mandato un cattivissimo sms dopo che ha visto che ero arrivata a seconda. Enrico, pensi solo all'amore e non ti alleni, invece bisogna anche pensare. Allora Paola, comincio da te. Io questa mattina tu avresti tante cose da dire, c'è stata un'aggressione in una discoteca a Verbania dove 7 ragazzi sono stati picchiati selvaggiamente solo perché erano gay. Vediamo se riusciamo però a fare un punto concreto. Certo. C'è stata una sentenza della Cassazione in cui, lo riassumo, la sentenza è la 41-48, dove la Suprema Corte evidenzia che le coppie gay hanno pari diritto rispetto alle altre coppie, anche se ribadisce il fatto che non esiste nel nostro ordinamento nessuna regola, certo, nessuna norma perché questo si possa applicare poi in una riconoscibilità. Erano due persone che hanno contratto matrimonio all'estero, come hai fatto te. Certo. Sono andati, dice, voglio iscrivere il mio matrimonio al registro delle coppie, dice, no, certo, non si può. L'atto era un atto chiaramente provocatorio. Beh, per chiarire il caso. Comunque, intanto ti ringrazio e saluto gli ascoltatori. Ringrazio anche l'avvocato Gassani di essere qui. Antonio e Mario, che in piena solitudine e con grande tenacia hanno condotto questa battaglia dal 2004, io li voglio ringraziare. Sono queste due persone. Perché hanno comunque sono riusciti a fare, a smuovere la Cassazione mentre la politica ancora dorme. Detto questo, sì, appunto, io in questi giorni sta partendo il mio ricorso, perché come Antonio e Mario, io e Riccardo abbiamo chiesto la registrazione, legittimamente la registrazione del nostro matrimonio. Loro sono sposati all'Aia, loro, in Olanda, Olanda, e tu in Germania. E io in Germania. Dove ci si può sposare normalmente. Esatto, dove c'è un istituto giuridico a parte per gli, specifico per gli omosessuali, e noi abbiamo chiesto, fatto la richiesta di registrazione del nostro matrimonio a Roma. Mi è stata negata, è arrivata una lettera, come è arrivata Antonio e Mario, una lettera dal comune che dice addirittura, e questa è una regola che, e qui mi appello al ministro Cancelliere, una regola che va cambiata. Dunque, secondo una legge fatta, stabilita da Giuliano Amato, purtroppo la nostra registrazione non si può fare, la registrazione del matrimonio, per ragioni di ordine pubblico. È abbastanza ghiacciante, no? Se io e Riccardo, cioè, Antonio, senso, e Mario, beh, hanno ragione, non ci possiamo, vengono sotto con i forconi sotto casa, se li menano nelle discoteche. E questo già è una cosa che va cambiata immediatamente, lo hanno chiesto in Ma su cosa radicali si appoggia questa norma? Su quale arcaismo? Ecco, questo è una cosa che noi sul adesso pubblico scandalo, dobbiamo, non so. Sì, appunto, ordine pubblico, ma questa è una cosa che va cambiata. Comunque, la Cassazione e Antonio e Mario hanno fatto ricorso dopo che il comune gli ha negato, il comune di Latina gli ha negato la registrazione del matrimonio. Loro hanno fatto ricorso e via via hanno fatto tutto il percorso giudiziario per arrivare alla Cassazione. Cosa che farò anch'io, cosa che appunto in questi giorni parte verso un giudice il mio ricorso, ma cosa che io invito a fare a tutte le coppie omosessuali, che sono tantissime le coppie omosessuali. Sono sposate all'estero. Ho capito, ma una battuta, Paola, secondo te perché da anni se ne parla? Governo Prodi, il governo Prodi è stato il primo a, però non è successo nulla. Non è successo nulla. Pensa che la prima legge, proposta di legge sul riconoscimento delle famiglie di fatto, così la chiamava, era di Alma Capiello, socialista, nel 1988. Fermati un secondo. 1988. E Prodi è stato, il governo Prodi è stato il primo a tentare la strada. Sì, però è rimasta è stata morta. Una strada. Ma come si affossa per strada questa? Perché qui c'è la politica e qui è evidente che la Cassazione, come aveva fatto la Corte Costituzionale 2 anni fa, la Cassazione evidenzia il vuoto legislativo spaventoso. Cassani è un vuoto spaventoso, perché che cosa fa? La Cassazione registra la realtà, e cosa che la politica non vuole fare ottusamente. Lei ancora dice, per un principio assoluto hanno diritto esatto, però non possiamo dirgli come. Noi la Cassazione dice no, voi avete diritto alla vita familiare. In Italia non c'è una legge, ma voi potete in base a questo principio fondamentale che le coppie omosessuali hanno diritto alla vita familiare, potete fare ricorso ai giudici. E poi dice un'altra cosa, e chiudo e poi do la parola all'avvocato, dice una cosa, attenzione, che è un'evoluzione della sentenza 138 della Corte Costituzionale sui matrimoni gay e sui matrimoni omosessuali. Dice, attenzione, è superato il principio che per potersi sposare bisogna essere di un sesso diverso, cioè che il matrimonio è solo eterosessuale. Questo è un'altra grande novità. Lo dice in questa sentenza? No, lo dice nella sentenza. Dice appunto tre cose: siete famiglie, avete diritto agli stessi diritti delle famiglie eterosessuali, andate dal giudice, e ricordiamoci, lo dice alla politica e lo dice agli italiani, che non è vero che è superato il principio che il matrimonio è solo. Fermati un attimo, Paola. 800 24 00 24, con veemenza Paola Concia ha esposto il problema. Come la pensate voi? Ma ditelo francamente, chiaramente, con tutti i dubbi che potete avere a proposito, con tutte le certezze, con tutte le esperienze che potete portare. Allora, avvocato Gianetto Regassani, entriamo nell'aspetto giuridico. Avvocato matrimonialista, lei si è mai trovato di fronte a un caso del genere? Ma spessissimo, spesso vengono coppie sia etero che gay a chiederci di chiedere al tribunale di avere una regolamentazione, un riconoscimento dei diritti. Sì, perché diciamolo francamente, i gay faranno da apripista e poi se ne avvantaggeranno tutte le coppie di fatto. Ma del sì, passo avanti. Se approviamo il matrimonio, no. Le coppie, oddio, si possono approvare tutte e due gli studi giuridici. Noi abbiamo 1.200.000 coppie di fatto in Italia, cioè un esercito, e quindi una popolazione che merita assolutamente di essere rispettata. Purtroppo in questo paese non c'è una sola norma che parli di loro nel codice civile. No. Una sola norma, un comma. E questo è grave. Quindi perché c'è una scomunica ragione, sociale e giuridica. Ha ragione la Suprema Corte quando dice che è superato il fatto che esista soltanto la famiglia come noi la pensiamo tradizionalmente costituita. Ma assolutamente, è la storia che lo dice, non solo la Cassazione, è la storia, è il censimento di tante famiglie, sono tanti bambini che nascono da coppie non coniugate, tanti amori che nascono tra coppie anche dello stesso sesso, di gente importante, di gente che si nasconde ancora. Molte volte non si procede giudizialmente perché la gente si vergogna, ancora c'è la vergogna sociale di dire io sono gay. Una cosa, avvocato, spieghiamo al pubblico perché le famiglie di fatto, le coppie omosessuali ci tengono a avere un riconoscimento giuridico, non è semplicemente una battaglia di bandiera, perché poi nel concreto questo comporta sono diritti concreti. Tutta una serie di diritti negati. Assolutamente sì, perché credo che quando si crea un sodalizio familiare e non necessariamente attraverso il matrimonio, che ha comunque una struttura complessa con figli, anche senza figli, ma comunque con responsabilità, proprietà comune, mutui, cioè, e quant'altro, cioè progetto di vita insieme, progetto di vita insieme, questa è la cosa più una scelta. Solidarietà in quella coppia, io credo che non si possa ancora pensare ad una esclusione da qualsivoglia diritto. Le faccio questa domanda perché ho visto e seguito un po' la deriva di coloro che con maggiore veemenza osteggiano questo progetto. Prima ci si è riferito a principi assoluti, la legge divina, poi si è passato a valutazioni igienico-sanitarie, perché sono rapporti naturali, pensando subito poi all'aspetto copulatorio. Terzo, perché porterebbero via la pensione le altre coppie. Ma i principi non sono un fatto di contabilità. Non possiamo bloccare una crescita perché c'è un problema contabile, perché se la mettiamo su questo piano siamo veramente alla deriva. Andrea, buongiorno, primo ascoltatore, 800240024, il tema mi sembra meritorio del vostro intervento. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno, guardi, io so perfettamente di rappresentare in maniera molto pacata quella che sarà un po' una posizione minoritaria esplicitamente all'interno della vostra trasmissione. No, diamo spazio a tutte le posizioni. No, ma lo so. Io non ho nessun pregiudizio. No, ma non lei, no, ma allora la questione è questa. Io per... Conta, certo, è piena di pregiudizi, è logico. Ha una posizione... Lei lo sa bene che io non sono piena di pregiudizi. No, vabbè, in ogni caso, visto che la trasmissione è pacata, io esprimo pacatamente il mio pensiero. Il mio pensiero è molto semplice. La famiglia come l'ho intesa io, che sono sposato da 15 anni con mia moglie, ho due bambini che faticosamente cerchiamo di tirare su tra tante difficoltà anche economiche e credo che pensare alla famiglia in un altro modo rispetto a come è oggi per me, come era in passato per i miei genitori e per i miei nonni, danneggi l'istituto. E non è una considerazione che per me è religiosa, ma potrebbe anche essere una considerazione laica. Io voglio dire chiaramente, siccome poi è giusto che ognuno faccia outing delle cose in cui crede fermamente, io dico, la prima considerazione è che esiste un Parlamento, se si troverà una maggioranza in Parlamento che approverà un istituto di matrimonio omosessuale, io sarò disponibile. Se ci saranno associazioni forse che ricorreranno contro questa legge, ricorrerò. Se poi perderemo, come ho già avuto modo di perdere il referendum sull'aborto, vorrà dire che mi manterrò nella mia situazione di minorità. Però è giusto anche che ognuno testimoni le cose in cui crede in maniera pacata. Ma infatti, tranquilla, la sua posizione è totalmente rispettabile. Quello che mi fa riflettere, la sua convinzione che è così ancorata su un principio reale, concreto, mi sembra sincero, non mi sembra assolutamente, lei non fa parte, se no non lo direbbe in questi termini, dei sepolcri imbiancati che impugnano il diritto alla famiglia, poi si trovano ubriachi sui balconcini degli hotel a Via Veneto circondati da trans o signorine prezzolate, quindi mi rendo conto, se lei è così forte, le sue convinzioni rimarrà sempre così, educherà i suoi figli in questa direzione e rappresenterà, viva Dio, una diversità nei comportamenti. Ci sarà chi penserà e crederà e avrà totalmente rispetto una famiglia basata su un principio di indissolubilità, è bello che ci sia, ammirevole che ci sia, ci sarà chi fa scelte diverse. Io sono dell'idea che ognuno abbia diritto di esprimere tranquillamente, serenamente il proprio progetto di vita. Perché lei vede messo a repentaglio questo suo modello se si sposassero tranquillamente anche gli omosessuali. Io la vedrei anzi un motivo di attrito in meno. Si sposano, quindi non c'è più motivo di fare nessuna rimostranza, hanno gli stessi diritti e quindi si comporteranno come ogni altra persona, non lo so. Boh, a me non darebbe nessun fastidio, dico sinceramente. Ma se posso dire un'ultima parola, non, certo. È, non è proprio una questione di fastidio, perché come vede io per le persone, per ciascuna persona io provo rispetto, però vede, secondo me quello sulla famiglia non è un gioco a somma zero, per cui se si apre, se si dà di più da un lato, si tira via da quell'altro, e siccome io vedo tutti i giorni, lei dice la coperta è corta, quindi ci toglierebbero, ma cosa, risorse economiche? È molto pratiche. Brutale, ma no, non è economico, è una questione generale anche di rispetto dell'istituzione. Qui non è proprio economico, guardi. No, davvero. Vorrei capirlo, mi sforzo per capire. Poi le voglio dire una cosa. Guardi, la faccio molto corta. Noi prendiamo già calci in faccia tutti i giorni. Io quest'anno, per mettere, lo spiego brevemente, per mettere il mio figlio all'asilo, mi sono visto passare avanti ogni sorta di coppia convivente che nei punteggi va avanti quanto la madre dichiara di essere non convivente col marito. Allora, nel momento in cui ognuno gioca a fare gli sgambetti a me, che sto cercando molto faticosamente di portare avanti un progetto di vita, guarda, davvero... posso dire una cosa? Io sono normalmente, regolarmente, anzi sono anche sposato in chiesa, me l'ero dimenticato, pensi un po', figuri, quindi non è che ho passato anch'io tutto questo iter, è logico. Ci sono le mamme che a volte fingono di essere ragazze madri quando hanno una famiglia regolarissima, ma ragione di più, se ci fosse un istituto che gli farebbe regolarizzare la loro famiglia, sarebbero una coppia di fatto regolarizzata e quindi non ci sarebbe questo problema. Mi sembra talmente grosso oramai il dislivello fra ciò che tutti vorremmo che fosse quello che in realtà è, che non si può fare a meno, anche dal punto di vista del più oltranzista conservatore dell'istituto matrimoniale, far finta non esista il problema. Paola Concia, stai scalpitando, dai. No, io volevo ragionare col signore, appunto, giustamente dice quello che pensa, difende le sue idee, ma ci mancherebbe altro che non lo facesse davvero. Sa, l'altro giorno, a proposito di danneggia l'istituto matrimoniale, a proposito della sua affermazione che appunto una coppia omosessuale, la famiglia omosessuale danneggia l'istituto matrimoniale. L'altro giorno in realtà toglie risorse, il problema è puramente economico. Ma non è possibile, l'ha detto l'avvocato, non è che i diritti non sono un fatto economico, vedi che l'aspetto etico religioso va in secondo piano rispetto al fatto pratico. E questo perché evidentemente siamo in una crisi economica, ma attenzione, è pericolosissimo monetizzare i diritti, è una cosa pericolosa. Lo dico anche al signore, cioè lo dico anche a lui, attento, rifletta sul fatto che se si monetizzano i diritti fondamentali, può accadere anche ai suoi diritti fondamentali. Guarda Paolo, io ho fatto una trasmissione una settimana fa spiegando come nacque nella Germania nazista lo sterminio dei disabili. Con dei cartelli, dicevano: lo sai che un disabile costa allo Stato quanto fare la casa a un operaio? Così è nato, e così è cominciato lo sterminio dei disabili. Assolutamente. Allora guardi, Sergio Romano, che diciamo lei immagino conosce, editorialista del Corriere della Sera, che non è esattamente un rivoluzionario, ecco, l'altro giorno rispondendo a una lettera ha fatto un articolo molto bello in cui lui spiega dal suo essere un uomo diciamo conservatore il perché invece secondo lui i matrimoni omosessuali aumentano la coesione sociale, e in un momento di crisi economica lui dice assolutamente noi dobbiamo favorire qualsiasi cosa e qualsiasi situazione che permetta la coesione sociale. Ti devo segare, Paola, per dare la linea. Prego. Velocemente all'informazione della borsa, riprendiamo tra un istante. 800 24 00 24, sentiremo adesso anche le voci di altri ascoltatori. Potete riascoltare Melog in podcast su www.radio24.it. Melog, la realtà condivisa. Diritto delle famiglie? Di famiglia. Siamo in onda, non riesco a trattenere questi due. 800 24 00 24, con Gianetto Regassani e Paola Concia, che avete sentito, tra di loro nascerà un idillio. Stiamo parlando oggi delle coppie gay e soprattutto del diritto di avere un riconoscimento giuridico per le persone che vivono assieme, che hanno fatto un progetto di vita assieme, che a tutti gli effetti sono una coppia, ma non possono essere avere la corrispettiva parte di diritti perché non è scritto a nessuna parte. parte, qualcosa di cui non si parla, qualcosa di cui, al di là di tutte le proposte, di tutte le contrapposizioni ideologiche, sembra ci sia un muro invalicabile. In realtà, Gianettore Gassani, esistono esempi che ci circondano, noi siamo rimasti abbastanza indietro come paese. Quanti paesi, al di là dei paesi, diciamo, ma i paesi più importanti in Europa, del radicalismo più estremo, ancora è un problema questo quale riconoscere un diritto giuridico alle coppie. Ma in quasi tutta Europa è possibile, quindi, il matrimonio tra gay? Vanno tutti a sposarsi all'estero. Esatto. Ma e noi italiani, quando dobbiamo esercitare un diritto, dobbiamo andare all'estero. Allora, vuoi fare l'abrogazione medicalmente assistita? Vai in Spagna. Vuoi divorziare? Vai in Romania. Vuoi sposarti? Vai in Olanda. Cioè, tutti i diritti tu li vai a esercitare fuori. Evidentemente ci dobbiamo porre un quesito. Ma siamo veramente in Europa noi italiani? È possibile che possiamo vivere sempre sotto divieto di qualcosa, da qualcuno? E questo è il punto. E ecco perché noi l'11 maggio a Milano organizziamo un convegno internazionale. Voi avvocati e matrimonialisti. Sì, l'Associazione Avvocati e Matrimonialisti Italiani. Per avere un confronto con gli avvocati e magistrati stranieri, per capire come hanno fatto a superare tante difficoltà per pervenire poi al riconoscimento dei diritti. Forse ne hanno avute meno. Fermo restando che io non faccio politica, perché la mia associazione non me lo consente come da statuto. Io credo veramente di ragionare da laico. Credo veramente di ragionare da avvocato che viaggia in Europa, che ha confronti con gli altri avvocati e magistrati. Loro, gli avvocati tedeschi, inglesi, francesi, spagnoli, non riescono a capire come mai questo paese sia fuori da ogni logica di politica comunitaria. Noi siamo un paese avulso da quello che è il nuovo spirito libertario dell'Europa. Sentiamo Alfredo. Alfredo, buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione, è molto interessante. Senta, io faccio parte di una coppia eterosessuale che non siamo sposati, siamo una coppia di fatto e siamo benissimo così. Quello che non capisco è questa battaglia del mondo omosessuale per andarsi a infilare in un istituto fallimentare quale il matrimonio, cioè proprio questa è una cosa... Lei dice chi glielo fa fare? Sì, chi glielo fa fare? È una cosa che sfugge proprio alla... Posso dirle anche una cosa semplicissima, semplicissima. Potersi sposare, non è come nel suo caso, non è un obbligo, è un diritto. Le chiedo di riflettere su quello, non è un obbligo. Cioè, lei, Alfredo, se vuole farlo si lo può fa. Sposare. Se non lo vuole fare, non lo fa. Se lei fosse vietato, magari un pochino ci penserebbe, perché questa cosa non la lei posso questo, fare? Lei questo diritto lo esercita, infatti, esercita il diritto di non farlo, la libertà di non farlo. Nel nostro capisci? È semplicissimo. Allora è vietato. A noi è vietato. Poi guardi, io penso adesso non conosco le diramazioni del pensiero nella comunità omosessuale, ma sono molti che dicono non ce ne importa niente di sposarci, fermo restando che nessuno ha diritto di poterlo fare. È quello il problema. Roberto, andiamo avanti con gli ascolti. Roberto. Pronto? Eccomi. Pronto? Sì. Buongiorno, mi chiamo Roberto. Dunque, io volevo portare il mio contributo alla discussione in atto sui matrimoni omo o non omosessuali. E il mio contributo consiste in questo, grosso modo. Ho fatto una considerazione sul diritto naturale, e il diritto naturale, cioè quello che discende dalla natura, propende sempre verso il miglioramento della specie, verso la procreazione di figli, perché a questo punto se no l'umanità sarebbe già finita. Mica l'umanità è fatta solo di omosessuali, adesso non esageriamo, cioè continueranno persone a fare figli, non è un problema. Anche gli omosessuali fanno i figli. Vi do questa... No, gli omosessuali tutt'al più, da quanti io sappia della natura, tutt'al più possono adottare dei... No, no, possono anche farlo. Le do questa notizia. Le donne sono fertili. Io sono fertile. E gli uomini sono fertili, quindi se vogliono li fanno i figli. Li fanno come li fanno tanti eterosessuali o con l'inseminazione artificiale, ma anche in modo naturale. Guardi un po'. Ci sono tanti omosessuali felicemente sposati, anzi propugnatori del diritto di famiglia, sono omosessuali, hanno una famiglia, sono sposati, hanno figli. Allora dovrebbero essere sterili quelli. Non faccio nomi, ma stanno tremando molti grisagli, ma ce ne sono tanti. Ma da quanto io so, almeno... A lei non risulta esistano uomini sposati omosessuali con famiglia? Sì, io ne conosco tanti. Allora, se possono loro, perché non possono quelli che in questo momento rivendicano il diritto di sposarsi? Ma allora, io ritorno al discorso di partenza, vale a dire... Da che mondo esiste la famiglia è costituente? Ma della la famiglia è un'invenzione abbastanza, è abbastanza moderna come invenzione. Da che mondo esiste? Ci sono milioni e milioni di umanità, di anni di umanità in cui non c'era famiglia. Diciamo nel mondo civilizzato, sì, moderno, post-industriale, industriale, nata un'istituzione che si chiama famiglia, in cui c'è un uomo e una donna che hanno un riconoscimento per il fatto che abbiano figli, ma è una cosa abbastanza recente. Io trovo che l'idea dell'istituzione di famiglia non sia più moderna, non sia più adeguata al mondo. Le donne non potevano votare fino a non moltissimi anni fa in Italia. Le società si evolvono. C'era una legge che ammetteva il delitto per causa d'onore. Delitto d'onore. Ero ancora ragazzina. La violenza sessuale e il delitto contro la morale. Adesso, Paolo, non fa la co-conduttrice. Quando ti do la parola, sta zitto. Allora, Roberto, in conclusione, lei teme che si estingua l'umanità perché prenderanno la predominanza le coppie gay e quindi non, questo è il problema. Ma tutto sommato io il problema francamente non lo vedo molto, perché ritengo che se due persone vogliono stare assieme si possono associare in mille modi. Eh no, è quello il problema, non possono. No, Roberto, non si può, quello che sta, magari in Italia non si possono nemmeno fare dei patti prematrimoniali, che sarebbe la risoluzione di tanti matrimoni. Cioè io e la mia fidanzata andiamo da un notaio, diciamo noi ci sposiamo, ma ammesso che ci separiamo, questo è mio e questo è tuo, non si può. Avvocato, mi è conferma? Vero, è vero. Non allora, si sa perché, ma non si ho può. Ho presentato un progetto di legge al Senato l'anno scorso, poi è caduto il governo, ma ho capito immediatamente che sarebbe stato difficilissimo riconoscere i patti prematrimoniali in Italia, come del resto tante altre cose, tante altre rivoluzioni giuridico-giudiziarie di questo paese. Purtroppo è così, c'è un solo istituto, il matrimonio, punto e basta. Fermo restando che noi come associazione di avvocati matrimonialisti siamo i primi a dire che invece bisogna creare delle politiche a sostegno della famiglia e del matrimonio, ma pensare che ci siano ancora degli steccati ideologici basati su delle leggi che solo noi italiani vogliamo difendere all'oltranza, beh, questo è inaccettabile, lo dico come avvocato e come cittadino. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Allora, io innanzitutto saluto tutti voi, lei e i suoi ospiti. Non scendo nel merito, non faccio analisi sociologiche, come ho appena sentito, sul carattere del matrimonio, o antropologiche, però... Esprima il suo parere, semplicemente. Rivendico, infatti, una mia convinzione, cioè il fatto che il carattere di civiltà, di una civiltà evoluta, non si debba per forza considerare appannaggio di coloro che pensano che ad esempio nella fattispecie sia necessario il ricorso al matrimonio omosessuale. Cioè quello che io dico è che chi stabilisce per esempio il carattere retrogrado di una civiltà, cioè, sento che i vostri ospiti sono, diciamo, ritengono evoluta una civiltà come, che ne so, una società come quella tedesca in cui ci si può sposare. Io penso che c'è l'altra faccia della luna, di cui io faccio parte, ad esempio, che ritiene che un allargamento del concetto di famiglia sia per contro una involuzione, una degenerazione. Ma degenerazione è un termine. No, ce lo spiega. Sì, può parlare. No, e poi, poi vi lascio. No, ma esprima il suo parere. Secondo me spesso, forse anche in questa trasmissione, si fa un po' di confusione fra i diritti individuali e i diritti di alcuni nuclei, nella fattispecie quelli familiari. Voi stessi in trasmissione siete sicuramente così molto sottili da non potervi lasciare sfuggire che stamani, come su Mediaset, l'onorevole Concia è da voi, era stamani a credo Mattino 5 o qualcosa del genere. No, assolutamente. Però nell'ambito di una... Non sono geloso per questo, ecco. No, nemmeno io. Però nell'ambito di una discussione che spacca metà l'opinione pubblica, non ci si può lasciare sfuggire la preponderanza di ospiti che sostengono ad esempio il matrimonio omosessuale. Ma che vuole la par condicio? Vi faccio parlare. Ma sto facendo parlare tutte le persone per esprimere il suo parere. Certo, no, però il problema lo pone chi lo sente. Poi, sinceramente, io non mi sono mai posto il problema. Se mi fossi posto il problema, sarei andato in piazza a dire questo è il mio problema. Nel momento c'è una comunità sempre più forte, le persone vivono assieme a tutti gli effetti. Cioè, civilmente, perché non possiamo avere lo stesso riconoscimento che hanno gli altri, giuridico, di poterci dividere le proprietà, di avere le successioni, di accedere ai mutui, cose che fanno tutti. Questo mi sembra un giusto segno di civiltà, che non si sentono diversi dagli altri, possano farlo. Poi, se vogliamo ragionare in termini assoluti di convinzione etica e religiosa, ancora di più, chi è convinto dell'indissolubilità del matrimonio, della sacralità del matrimonio, avrà ragione ancora di più per essere, di sentirsi diverso, eccelso rispetto agli altri. Cioè io no, io faccio una scelta più eroica, perché la società mi mette in minoranza, ma goda il fatto della sua minoranza ideologica se sente emarginato, sia martire e rappresenti la sua posizione. Io le do tutto lo spazio, non è che le impedisco di parlare, però non mi sembra che in questo caso possa essere accusato di non dare spazio e voce alle persone che sono. Chiamo Paola Concia perché il tema lo solleva lei. Se un domani parlassimo del diritto dei ciabattini di risolare le scarpe con le bullette di ottone invece che di ferro, chiamerei loro, è la stessa cosa. Il problema l'ha sì. sollevato la Suprema Corte di Cassazione. È la Cassazione che ha sancito l'inizio di un dibattito. Perché qualcuno che soffriva il problema l'ha portato fino alla Cassazione. Quindi, da sola non sarebbe mai svegliata. La Cassazione ha osservato. Ha dovuto rispondere. Ha risposto a una domanda. Come la domanda è c'è. Il dovere della Cassazione. E l'ha fatto anche il Parlamento europeo su questo. Certo, Strasburgo. Fermiamoci un istante, siamo già fuori di un minuto. Melog, la realtà condivisa. .800240024, aspettiamo interventi del pubblico, visto che ci hanno detto che diamo troppo spazio a una a un punto di vista rispetto al problema del matrimonio per le coppie omosessuali. Sentiamo Mario, ascoltatore Mario. Sì, buongiorno dottore, buongiorno sì. ai suoi ospiti. Ma io vorrei dire, 47 anni, 15 di matrimonio, due figli, sono molto simile al primo intervenuto, anche per idee. Sì, ma guardi, è molto simile anche a me, non è che io parlo qui perché. No, era per dire. Pensi che io mi sono sposata due volte. Complimenti, onorevole. No, volevo dire questo. Sono d'accordo sui diritti, non so, io penso agli omosessuali, ai casi, non so, malattia che non può intervenire, eredità che vengono buttati fuori da casa, giustissimo e bisogna porvi rimedio. Non accetto, assolutamente non accetto, che le coppie eterosessuali, di fatto conviventi, per scelta, come avete detto prima, poc'anzi a quel signore che lui per scelta non si è sposato, debbano avere gli stessi diritti. Perché se non si sposano e non hanno questi diritti, vuol dire che non gli interessano. Gli omosessuali è giusto, se non possono intervenire nella malattia del loro compagno, è giusto che lo possano fare. L'eredità, la pensione che possa essere reversibile, ma una persona, uomo e donna, che normalmente avrebbero gli strumenti e non vogliono il matrimonio per altri loro motivi, ma allo stesso tempo vogliono i diritti, coloro che sono sposati, io non li metterei sullo stesso. Sua madre, non possiamo dire che in realtà quello che oggi chiamiamo matrimonio, che è un mix di norme giuridiche, di norme religiose, comunque ha una sua sacralità comunque, perché anche i matrimoni civili, c'è il sindaco che come un prete si mette la fascia, è una simulazione di liturgia che non c'è, va la sposa in bianco, tirano il riso, è la stessa cosa, quindi rimane un retaggio sacrale sul matrimonio, dovrebbe rimanere tale per chi a questo dà un valore profondo, reale, etico e religioso e non discute, ma dovrebbe esserci una forma di contratto per cui le persone che stanno assieme, come lei dice giustamente, se vogliono i diritti devono fare un contratto fra loro, non sono due persone, cioè oggi siamo qui, domani siamo là, fanno un contratto, si prendono un impegno, per la durata del contratto valgono le norme. Gianettore Gassani, cosa ne dice? Ma innanzitutto bisogna distinguere le coppie di fatto per scelta da quelle per forza, certo. Siccome in Italia per avere uno stato molti libero, che non possono fare altrimenti, cioè 12 anni di causa insomma per ottenere poi lo stato libero e risposarsi in alcuni casi, soprattutto quando si tratta di separazioni e divorzi giudiziali, quindi cominciamo a considerare che almeno la metà dei conviventi morio uxorio vorrebbero sposarsi di nuovo e non lo possono fare, ma comunque in ogni caso io credo che i Pax Edico di cui si è parlato anni fa poi tutto è stato insabbiato, è stato un motivo di frizione in tutte le maggioranze, ma è una politica, la politica, le istituzioni, la politica, perché dentro le istituzioni sono i partiti, è pavida rispetto a questo argomento. Comunque domani noi sia PD che altri partiti sicuramente anche i DV lo abbiamo annunciato tutti, chiederemo di mettere all'ordine del giorno invece le 7 proposte di legge che ci sono tutte le tipologie degli istituti giuridici e si ricomincerà la discussione. Ecco, volevo chiarire, sì, ecco, avvocato, giusto 2 secondi, sì, che i Pax Edico non devono essere un doppione nel matrimonio, ma un riconoscimento di diritti fondamentali. È ovvio che il matrimonio in quanto tale è un istituto che non può essere copiato da altro, altrimenti ti sposi. Certo. Però il riconoscimento dei diritti minimi è un'altra cosa, e in tutto il mondo occidentale c'è questo riconoscimento, tranne che appunto nel nostro paese. Scusa una cosa Paola, nel governo Monti, governo sì, tecnico, sì, governo sì. Di cui tutti sono fieri e contenti, è la prima volta che ponete questo problema, si entra in un campo molto spinoso, che è il campo proprio delle convinzioni etico-religiose. Per esempio, non se ne è mai parlato. Il problema, no, non abbiamo ancora parlato, però è dato, mi pare, un dato di realtà che il governo Monti, che è sostenuto da tre grandi partiti, insomma, da tre grandi formazioni politiche, non è un governo tecnico, non si deve occupare solo di economia. Ricordo l'IMU alla Chiesa Cattolica, ricordo il divorzio breve, ricordo altri, adesso si occupa di Rai, quindi diamo per assodato che il governo Monti non si occupa solo di come è giusto che sia di risanare l'economia del nostro paese, perché attenzione, un paese più ricco è un paese in cui i diritti sociali e i diritti civili stanno insieme, viaggiano insieme, è un paese più ricco. Dicevo, no Paola, cactus spinoso che stai per porgere al governo Monti come può essere concretizzato? Ma guarda, intanto che il governo deve sostenere l'iniziativa parlamentare, nel senso che noi, come mi auguro domani, stabiliremo che si riprende la discussione in Commissione Giustizia, quindi il ministro Severino e il ministro Fornero ci devono aiutare nell'iniziativa parlamentare a trovare delle soluzioni, la soluzione migliore, la soluzione in cui vince il principio di uguaglianza. Gli istituti giuridici sono diversi, quelli che sono sul piatto della Commissione Giustizia, cioè ci sono le mie tre proposte di legge del matrimonio, la partnership tedesca, il Pax francese, c'è l'IDV che ha presentato anche il Pax, c'è il centrodestra che ha un'altra proposta di legge, c'è un'altra proposta di legge di un mio collega del PD sulle unioni civili. Quindi se ne riparlerà, c'è Rita Bernardini, se ne va a parlare per forza. Se ne deve parlare per forza, il governo si deve mettere a disposizione del Parlamento a lavorare con noi, senza ideologia, cioè bisogna affrontare la realtà come ha fatto la Cassazione. Oggi è la festa del papà. Io ho vissuto a tutti anni papà. Di cause contro i padri gay e ho scritto un libro proprio su questo. Beh, il mio libro per Persi Sposi parla proprio della tragedia di padri discriminati da molti tribunali negli anni 80-90, anche le donne, e finalmente è intervenuta anche qui la Cassazione, che ha sancito un principio in cui non si può condannare un padre gay. Blocco Paola Concia, Gianetto Regassani, mi sembra una conclusione ottima. Il giorno della festa del papà, un motivo in più per riflettere su questo, che è un problema, possiate vederla come volete, il problema c'è. A domani.